Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del Cacciatore di Libri che trasmettiamo dall'Expo di Milano. Abbiamo preso tre scrittori, abbiamo fatto una specie di esperimento e li abbiamo messi all'interno dell'Expo. Abbiamo detto: che cosa mai potranno trovare questi scrittori nell'Expo? Quale sarà il punto di osservazione? Quale sarà l'idea fondamentale, intelligente, rivoluzionaria che questi tre autori riusciranno a trovare nell'Expo 2015? Lo dico in modo così ironico perché gli scrittori che abbiamo invitato in questa puntata del Cacciatore di Libri sono veramente tre scrittori ormai amici di Radio 24, abbiamo parlato spesso dei loro romanzi e quindi diciamo stanno anche un po' al gioco per divertirsi in questa puntata, appunto, Cacciatore di Libri Expo, degli scrittori a caccia dell'Expo. Chiara Moscardelli è stata un po' la reginetta dell'estate, possiamo dirla così, con il suo romanzo Quando meno te l'aspetti, pubblicato da Giunti, un romanzo molto ironico, molti se lo sono portati sotto l'ombrellone, insomma ci ha fatto divertire come sempre con le sue storie ironiche. Federico Baccomo, anche lui scrittore molto ironico, forse lo ricorderete per alcuni suoi libri, per esempio Studio illegale, ecco, adesso puoi parlare Baccomo, puoi parlare, no, hai il microfono, mi piaceva sei il momento di celebrazione, volevo ascoltare. Però il tuo ultimo libro è Pip Show, pubblicato da Marsilio. E infine abbiamo direttamente dal Giappone, infatti ancora ha un po' di jet lag, un po' di fuso, mettiamola così, Francesca Scotti, scrittrice italianissima ma che vive in Giappone a Nagoya, con Il cuore inesperto, pubblicato da Elliot. Di tutti questi tre libri abbiamo già parlato al Cacciatore di Libri, quindi vi invito naturalmente a trovare le interviste a questi scrittori direttamente sul sito Radio 24, cliccate nella sezione programmi Cacciatore di Libri e vi potete andare a trovare il libro di Chiara Moscardelli, Federico Baccomo o Francesca Scotti, così insomma potete approfondire anche l'aspetto dei loro romanzi. Allora, reginetta dell'estate, ecco, ti ho definito, Chiara Moscardelli, perché insomma il tuo è stato un successo dell'estate, un libro divertente, la protagonista Penelope Stregatti è una ragazza 35-36enne, conosce 4-5 lingue, qui all'Expo si sarebbe trovata bene. Sì, benissimo, perché parla anche il cinese Penelope Stregatti. No vabbè, ma cioè, è un mito, però sfigata com'è probabilmente l'avrebbero messa a staccare i biglietti. Diciamo, beh, certo, la verità, certo, ovviamente, perché Penelope Stregatti è questa donna, insomma possiamo dire, che appunto molto ironica, fa molto autoironia su se stessa, ma è un po' sfigata in amore. Nella tua storia praticamente, che poi si tinge anche un po' di giallo, all'inizio del romanzo questa Penelope Stregatti investe con la bicicletta un signore, tu lo sai, un bell'uomo, più un che bell'uomo. Signore, perché signore non è sinonimo di bell'uomo, no, un gran bel figo. Possiamo dirlo, un gran bel pezzo d'uomo, allora, ecco, in questo caso, un gran bel pezzo d'uomo. Se l'avesse investito qui all'Expo, per esempio, sai che qui ci sono dei trabiccoli che girano, ci sono delle biciclette per gli addetti ai lavori, ma ci sono anche quelle specie di trespoli che vanno con tre ruote, così è. Che cosa avrebbe fatto Penelope Stregatti se avesse investito un uomo all'Expo? Ma dipende dall'uomo innanzitutto, perché se avessi investito il gran bel pezzo d'uomo che investe in Quando meno te lo aspetti, l'avrebbe soccorso immediatamente in tutti i modi possibili, come fa Penelope nel libro. È più probabile che però se l'ambientazione fosse stata nell'Expo, Penelope fosse stata, sì vabbè, i congiuntivi non oggi, non ti preoccupare, è l'effetto Expo, è più probabile, no, volevo dire che era più probabile che fosse investita lei all'Expo, ecco, questo volevo dire, con quei trabiccoli, esatto, con quei trabiccoli che ho visto, ecco. No, allora ti scusiamo per quanto riguarda congiuntivo e condizionale, perché lo diciamo, i nostri autori fanno parte di questo esperimento del Cacciatore di Libri, cioè sono qui all'Expo da stamattina, quindi rendetevi conto, fra confusione, file per entrare ai padiglioni, cibo di tutti i tipi da mangiare, la ricerca del bagno, perché insomma ogni tanto grazie, bisogna, ecco, mi sento di intervenire sul ecco punto, Francesca Scotti sinergico per dire che no, tra l'altro Francesca Scotti, tu però sei arrivata dal Giappone, però non sei riuscita a visitare il padiglione del Giappone perché ci sono ogni giorno code che vanno da un'ora e mezza quasi a due ore. Sì, ma che ci avrete di così bello da mostrarci? È uno dei paesi dei contrasti e quindi della bellezza della poesia, in più con il grande avanzamento, forse questo infatua anche i visitatori. No, sicuramente è un paese che rappresenta la distanza e l'idea di averlo a portata di mano, di visita, certamente è uno di quelli che io credo attirà molto, proprio perché rappresenta qualcosa di molto lontano. Poi quando i giapponesi fanno le cose le fanno veramente alla grande. Cosa, adesso abiti da diversi anni a Nagoya in Giappone, quindi hai mantenuto la tua italianità, però insomma stai diventando un pochino giapponese. Che cos'è che ti piace del Giappone e cosa invece che non ti piace proprio? Ma io credo che in qualche modo sia poi la stessa cosa, perché da un lato è l'estrema cortesia e quindi una struttura all'interno della quale ci si muove relazionalmente molto, molto ben articolata e molto ben armonizzata, parlando di musica. Per contro c'è poco spazio alle grandi espressioni, alle libere espressioni, agli incidenti del destino. Insomma, Penelope Stregatti in Giappone, se avesse investito un giapponese probabilmente sarebbe finita in galera. No, ma nemmeno, magari per non offendere l'investito avrebbe tirato dritto e quindi no. Quindi no, niente. No, perché non sarebbe nata una storia d'amore. Incredibile. Però vedi lei come dice bene i congiuntivi. Sì, ma è solo perché sto parlando molto lentamente. Ecco. Sto parlando molto lentamente rispetto al mio solito per cercare di non scivolare nel congiuntivo e nel condizionale. Esatto. Il libro di Francesca Scotti, Il cuore inesperto, racconta la storia di un amore, una passione grande fra Anita, una ragazzina, una 17enne, e un uomo più grande di lei che è il suo insegnante di viola, e si svolge tutto al Conservatorio di Milano. Quindi la musica ha molto a che vedere, soprattutto la musica classica, molto a che vedere con il tuo romanzo. Dicevamo, non hai ancora avuto modo di vedere il padiglione del Giappone, però nel tuo libro c'è qualcosa che mi ha ricordato l'Expo, ossia il rapporto col cibo. Sappiamo l'Expo, il tema è nutrire il pianeta, la nutrizione, il cibo, la sana alimentazione. La tua protagonista ha un rapporto particolare con il cibo, cioè lei è molto selettiva, non è anoressica, ma mangia certe cose no. In che modo c'è questo rapporto col cibo? Ma, io credo, ci facevamo un piccolo scambio prima con Chiara su come il cibo sia sicuramente uno strumento anche per chi racconta, per chi scrive, per far parlare i propri personaggi in un modo diverso rispetto a quello magari più spontaneo, più immediato, che è quello della parola, della gestualità, perché attraverso il cibo, che può essere presa in carico, cura, emozione, scoperta di un mondo, perché io parlo della mia si scopre qui, tanto. Esatto, attraverso il cibo, non a caso i primi scambi che anche tra di noi, tra loro due che hanno già visitato e io che ancora devo, sono: ma cosa hai mangiato? Dove? Proprio perché sicuramente è un passaggio molto intimo, perché appunto mangi, porti qualcosa a te, anche di una cultura molto distante. Nel mio caso Anita utilizza il cibo come un territorio nel quale ribadire la sua personalità, e soprattutto nel rapporto con la madre e anche con lei vuole essere quella che sceglie cosa mangiare, quando mangiare, come mangiarlo. Quindi sì, non un problema di tipo anoressico, ma un comportamento alimentare codificato, sì, di controllo proprio del cibo. E quindi magari avrebbe mangiato il gelato al pane bruciato. Ecco, raccontatemi, perché appunto Chiara Moscardelli e Federico Baccomo, oggi passeggiando in Expo, hanno assaggiato il gelato come? Il gelato al pane nero bruciato. In che stand? Che è un po' il nome di una ricetta che potrei fare io o Chiara, quando sbagli. Ma di che paese è? Adesso te lo dico, siamo andati in Lituania, perché pensavamo a posti che non abbiamo visitato, la possibilità di assaggiare qualcosa che è più difficile da assaggiare. Per cui andavamo sui nomi, quelli appunto più esotici, più strani. Questo pane nero, bruciato, fatto sotto forma di gelato, ci ha incuriosito. In realtà era verde, sapeva di menta. No, questo ha complicato tutto. Cosa c'entri il pane bruciato non con si la sa, menta? E si questo l'ha reso ancora più affascinante. Ed era buono. Era molto buono. Era molto lo consigliate. Buono. Lo consigliamo, ma devo dire... cos'altro che avete mangiato? Ecco, vediamo oggi. Sì, avete fatto gli scrittori, quindi gli osservatori intellettuali. Avete preso i vostri appunti, magari per le vostre prossime storie. Però avete soprattutto mangiato, diciamo la verità. Ah, dalle briciole non abbiamo smesso di mangiare. Ah, ecco, ancora stamattina a 5 minuti fa, ecco, una 12 ore full sì. immersion. No, ma poi dal modo in cui mangiamo non si può dire che fossimo molto intellettuali, però abbiamo approfittato appunto di tutto quello che era un pochino più esotico, quindi abbiamo cominciato, vabbè, Vietnam non è così esotico per un italiano o un milanese, dove spesso si trovano ristoranti, ma abbiamo assaggiato questo involtino molto particolare. Il nome è irripetibile. Infatti noi non lo ripeteremo. Poi siamo stati in Qatar, perché qui è molto divertente questa cosa che abbiamo sentito, una signora che diceva, ah guarda che Filippo sta andando in Perù. Sì. È una frase che suona. Perché andare nei vari padiglioni ha una sua componente. Però ecco, al di là del mangiare, avete mangiato, vi siete divertiti, questa è una grande appunto fiera, tra l'altro siamo ospiti dello stand di Cibus Italia Federalimentare, quindi insomma qui ad Expo si parla di cibo a 360 gradi e diciamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Che idea vi ha dato questa Expo? Un grande parco giochi, come l'hanno definito alcuni, oppure effettivamente riesce a dare un messaggio? Partiamo da Federico Baccomo. Ma guarda, io devo dire, pur divertendomi nella situazione, se dovessi pensare all'idea di cos'era l'esposizione universale e di cos'è oggi, mi viene da dire che non ci sia più quella componente di vado a vedere qualcosa di veramente nuovo, per cui di rivoluzionario. Ma perché dove già si vedono... conosciamo tutto? E forse quello è il problema. Una volta l'esposizione universale permetteva alle città di presentare lo status dell'arte, insomma, in quel determinato settore, e tutti i paesi irraggiungibili normalmente venivano raggiunti in una stessa città. Oggi aspettarsi una rivoluzione da questo tipo di iniziativa forse è un po' anacronistico, fuori tempo. Dire che è un parco giochi è riduttivo, è un parco giochi diciamo di livello elevato, però me lo sto vivendo un pochino in questo senso qui, un pochino più come di curiosità. Dicevamo prima, forse il fatto che viaggiare sia molto più facile. Certo, anche su internet riesci a conoscere cose, i ristoranti etnici. Quando esatto. eravamo piccoli, noi siamo più o meno tutti della stessa generazione, sì. diciamo siamo intorno ai 22 anni. Esatto. E quando eravamo piccoli non c'erano tanti ristoranti stranieri. Io non avevo mai mangiato cinese, neanche vietnamita, insomma, quando ero bambina. Chiara Moscardelli, tu che impressione hai di questa Expo? Mi adeguo, nel senso che oggi riesco a parlare male. Vista la stanchezza dei piedi, mal di gambe, mal di perché tutto. Perché all'Expo ci si sta. Diciamo che all'Expo sono solo file interminabili, code, camminate, file anche per andare in bagno, come si diceva, fila per andare in bagno. Quindi mi adeguo a quello che hai però detto. Mi piace l'idea, parlo male perché mi fanno male i piedi, che è no, una cosa certo, che... C'è un collegamento. È un collegamento. Perché i piedi sofferenti, è un disagio. È un disagio e quindi il mio cervello è collegato con la sofferenza del piede. Comunque, detto questo, è vero, ne stavamo proprio parlando, non so in che ora del giorno con Federico e cosa stavamo mangiando in quel momento, però è vero, sembra tutto, adesso questo è riduttivo dirlo, però sembra tutto già visto, perché appunto siamo abituati a vedere televisione, internet, Facebook, però, esatto, però in realtà non è di base, non è così, perché sennò altrimenti non si spiegherebbero le file di 3 ore e 40 per entrare al padiglione del Giappone, per esempio. Francesca Scotti, invece tu che così sei veramente, tu sei stata catapultata dal Giappone, sì. sei arrivata direttamente in Expo, hai avuto proprio un piccolissimo assaggio. È successo qualcosa nel frattempo, ma siamo tutti vivi, sì, c'è stato un po' d'aria, un po' di vento. Io credo in che Expo. Certamente lo visiterò e appunto domani lo girerò tutto quanto, ma quello che dicevate rispetto all'accorciarsi delle distanze anche con la virtualità, per esempio quando tu mi hai invitato e mi hai detto guarda che avevo già in mente e in animo di visitarlo, ma ho potuto grazie a internet, grazie a organizzarmi perfettamente un percorso. E addirittura ritrovarmi in luoghi che avevo soltanto visto virtualmente, però sapere come muovermi, questo l'ho già visto e quindi riesco. Io degli scrittori non sono poi così, un'immagine agli scrittori sempre persi nel loro intellettualismo, invece sono anche molto pratici. Abbiamo male ai piedi. Avete male ai piedi. Scappa la pipì. Però se ho tempo e posso. 30 secondi e poi una pausa. È vero anche il contrario, e cioè che mi è venuta la curiosità, sì, attraverso il cibo di conoscere paesi che altrimenti non avrei mai preso per in considerazione. Un paese? La Lituania, ecco, che io non avrei onestamente mai preso in considerazione di visitare, o meglio sì, ma come ultima, certo, visita rispetto a tantissimi altri paesi, mm-hmm, che uno nell'immaginario, insomma, anche vuole collettivo visitare. Vuole visitare la Lituania, per esempio. Adesso mi è venuta la curiosità di vedere che tipo di paese è. Tutti che... in Lituania, allora. Tutti in Lituania, tutti in Lituania. Sì. Federico Baccomo, il tuo libro Pip Show, pubblicato da Marsilio, ha per protagonista un ragazzo, Nicola, che vuole assolutamente andare nella casa del Grande Fratello. È uno che, come dire, vive per apparire. Nel momento in cui esce dalla casa del Grande Fratello non si sente più nessuno. Quindi all'inizio vediamo l'aspetto anche ironico, tu lo prendi molto in giro come persona e come personaggio, e poi ci sono anche dei risvolti drammatici in, sì, questo tuo Pip Show. Il tuo Nicola come si sarebbe trovato in un contesto come Expo, dove, come dire, mostrare se stessi e mostrare agli altri è in fondo anche una delle parole d'ordine? Ma non si sarebbe trovato bene, perché non sarebbe al centro della situazione. E c'è troppa gente. Per cui, sì, e soprattutto non è lui quello che si mette in mostra. E una cosa buffa è che il libro ha passato 1 miliardo di titoli prima di diventare Pip Show, che è un titolo che mi piace molto. Che era l'unica giornalista a non aver capito cosa fosse il Pip Show. Ma tante persone ho dovuto spiegare. Ed era... No, ma diciamolo, perché tanto non siamo in orario protetto. Diciamo, sì, no, cos'è Pip, il Pip Show è uno spettacolo a luci rosse, ecco, dove la donna si spoglia, ma il cliente non viene visto dalla donna che, ecco, si spoglia. Io avevo capito Bip Show, cioè come se ci fosse un beep sopra. Sì, vabbè, sì, no, infatti non problemi. So neanche quanto dal punto di vista di marketing fosse stata un'idea. Però, insomma, è un titolo che amo, insomma, molto. È passato molti titoli. Però uno di questi titoli era proprio Esposizione Universale. No, questa è una notizia. Daccomo, ci sta dando una notizia. Ma questo non lo sapevo neanche io. Perché ma non lo sapeva. Però Moscardelli sapeva un altro titolo, che era Brad Pitt e il pollo messicano. Sì, esattamente. Sì. No. Che io adoravo. Esposizione Universale. Sì, perché è proprio l'idea che c'è oggi degli uomini in generale che fanno spettacolo, uomini, donne, ma anche di noi che stiamo su Facebook, su Twitter, c'è questa distruzione totale della privacy. Oggi fa ridere pensare che c'è un garante della privacy quando noi facciamo di tutto per mettere in pericolo la nostra privacy, le foto del cibo che mangiamo, le foto delle nostre vacanze. Ormai va di moda mettere su Instagram quando si va in bagno, per, sì, esempio, perché, le star, no? Ma, sì, esatto, ci sono state due star, da Risa a Melissa P, che hanno fatto una foto, certo, mentre fanno la pipì, insomma. È vero. E sono situazioni che sembra quasi che un'esperienza non sia tale se non è condivisa. Non è anche condivisa, qua si vede tutti con lo stick per i selfie. E l'idea appunto dell'esposizione universale, mi piaceva il gioco di parole tra esposizione universale e quello che è diventato. Allora possiamo ribattezzarlo. Sì. Potremmo ribattezzarlo, era più facile da spiegare. Anche. Pip Show, sottotitolo Esposizione universale. Guarda, come marketing sarebbe andato era benissimo. Expo 2015. Ma io ci ho anche pensato, ho detto, ma esce questo libro, poi tutti penseranno che è sull'Expo. Legato all'Expo, capito, questa... sei un po' paraculo, invece, esatto, no. Ecco, per cui il protagonista non si sarebbe trovato bene per questa circostanza. Lui, che sta andando a rotoli, a fondo, nessuno lo segue più, trovarsi immerso in un contesto invece di cui tutti parlano, dove tutti hanno qualcosa da mostrare, l'avrebbe fatto sentire veramente ridicolo. Certo. Allora, visto che siete scrittori, insomma, siete ironici, siete simpatici, ma siete scrittori, io vi ho chiesto di venire in questa puntata speciale Cacciatore di Libri Expo pensando a un libro, un romanzo, un saggio, poesia, quello che volete, che in qualche modo vi faccia, vi ha fatto pensare all'Expo, sia per il tema della nutrizione, per l'idea del il giro del mondo in 80 minuti. Banalmente io ho pensato a Expo 58, il romanzo scritto da Jonathan Cole, lo scrittore inglese, qualche anno fa, pubblicato da Feltrinelli, che ricorda l'Expo Universale del 58, se non erro, a Bruxelles, dove c'era ancora chiaramente la Guerra Fredda, la Cortina di Ferro, quindi si costruiva il padiglione degli Stati Uniti accanto a quello della Russia. Insomma, è un romanzo molto divertente leggerlo oggi, naturalmente, guardando e pensando a che cos'era, come diceva prima anche Federico Baccomo, che significato aveva un tempo l'Esposizione Universale. Chiara Moscardelli, che libro hai pensato? Sempre da me si deve iniziare. Da qualcuno, siamo in tre qua, insomma, dobbiamo girare, ecco, così. Allora adesso, concentrandomi sui congiuntivi e sui condizionali, direi che ho molto pensato a quello che mi avevi chiesto sui libri. A me effettivamente è strano che non mi sia venuto in mente quello di Jonathan, Jonathan Coe, perché tra l'altro io adoro Jonathan Coe, e so, quindi niente, completamente passato sotto silenzio. T'ho fregata. Ma è fregato. Mentre ho pensato più che all'Expo, ho pensato proprio al cibo, perché chissà perché, no? Sia la sottoscritta che le mie protagoniste sono sempre fissate col cibo, hanno questo rapporto con il cibo un po' complicato. Complicato, vi piace mangiare, siete buon gustai, sì, nel senso che non siamo gatte morte, quindi diciamo, ci piace mangiare, citando il tuo primo libro, esatto. E quindi ho pensato a tutti quei libri che avessero come componente il cibo, ma inteso come cambiamento sentimento, cioè un cibo che potesse cambiare l'animo, il sentimento, l'amore, potesse suscitare anche qualcosa di diverso rispetto a una condizione, alla condizione attuale o presente. E quindi mi è venuto in mente Chocolat, della Harris. Sento già il profumo. In cui, vabbè, immagino che poi nell'immaginario tutti conoscono il film. Tutti conoscono, sì, il film. Sì, quello con Johnny Depp. Ma l'avete visto come è ingrassato? Sì, ma l'avete visto? Sì. Ma Dio, alla nostra di Venezia. Io. Vabbè, avrà mangiato. Basta, non diciamo niente, critica. Ma a parte la robustezza di Johnny Depp, la sciatteria, la panza, diciamo la verità, l'abbinamento, quei pantaloni sformati, la scarpa. Vuoi dire agli ascoltatori che mi sento escluso? Sì, si sente. Vuoi che parliamo male anche dei miei pantaloni? Tre intellettuali che parlano della panza di Johnny Depp, veramente. No, io non dico la panza, perché Johnny Depp a me non, tra l'altro, non mi è ma della sostanza. Ma esatto. Quindi insomma, il tuo libro Chocolat e anche due, si possono dire, sì, due, perché è sempre legato con questo, col cibo che modifica uno stato d'animo, un sentimento, è anche il pranzo di Babette, cioè in cui il cibo trasforma l'animo, trasforma il sentimento, trasforma l'amore, e quindi in questo senso pranzo di Babette e Chocolat, sì, per Chiara Moscardelli. Francesca Scotti, tu? Io invece l'altro côté di Expo, quello, sì, del giro del mondo, e ho scelto un libro di Cortázar, Il giro del giorno in 80 mondi. Del giro del giorno in 80 mondi, meraviglioso. Sì. In realtà l'ho scelto per due motivi. Uno, perché Cortázar viene definito come un curioso universale e un vorace cosmopolita, e quindi mi sembrava lo scrittore adatto a rappresentare, un po' perché con questo libro, che è una sorta di enciclopedia personale, di almanacco come quelli un po' di Frate Indovino, è un libro con tanti ingredienti e che sposta le frontiere fra i generi, perché contiene poesia, contiene fiction, contiene humor, contiene illustrazioni, e quindi è un libro che nella mia fantasia poteva rappresentare quello che succede. Adesso twittiamo la copertina, così ce lo ricordiamo. Poi, come al solito, potete trovare la puntata in podcast su radio24.it, anche per prendere nota dei libri che naturalmente ci citiamo. Federico Baccomo, il tuo libro Expo, simbolo Expo? È una graphic novel che è uscita qualche anno fa per Mondadori, ed è di Chris Ware, che è uno dei più grandi fumettisti del mondo, ha vinto un sacco di premi. Il libro si chiama Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba della terra. Troppa R in questa frase per Federico. Io avrei voluto allora ripeticelo piano. Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba della terra. Il ragazzo più in gamba della terra. E ok. Ha tante storie che si intersecano, che si sovrappongono, una delle quali è ambientata proprio durante l'Expo di Chicago del 1893, che è considerato uno dei più grandi Expo della storia, che ha dato la fisionomia alla Chicago moderna. Certo, Chicago ha lasciato poi un'eredità grande anche dal punto di vista architettonico. Esatto, proprio in competizione con New York, che aveva perso il concorso, e su quello grande spettacolo della Chicago in cambiamento si consuma la piccola storia di un ragazzino che viene abbandonato dal padre proprio all'interno di questi enormi padiglioni, che si gira e chiama il papà, e il papà non c'è perché l'ha lasciato lì. Ed è una storia bellissima, credo uno dei romanzi, una graphic novel, ma uno dei romanzi più belli secondo me degli ultimi anni. Che bello, che bei tre consigli. Però io so che Francesca Scotti in 30 secondi ci citerà anche una poesia. Una poesia però è un duetto, perché il nome della poetessa lo dirà Federico. Scimborska. Poetessa polacca. È una poetessa polacca, e la poesia è Il Melo, ed è una poesia che troverete anche in rete. Vi invito a Il Melo. Cimborska. Sì, e questo invece è la Nutrire il pianeta energia per la vita. È un... È una bella, è una bella chiusa, assolutamente, in modo poetico, da tre grandi intellettuali come voi. Lo dico scherzando perché ci conosciamo, insomma. Grazie allora a Francesca Scotti con il suo romanzo Il cuore inesperto, pubblicato da Elliot, Chiara Moscardelli, Quando meno te l'aspetti, pubblicato da Giunti, Federico Baccomo, soprannominato Duchesne, con Pip Show, pubblicato da Marsilio. Trovate le loro interviste con sui loro libri, naturalmente, su radio24.it in podcast. Grazie a Valerio Rocchetti per averci assistito in questa regia, grazie a tutti, come sempre buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.